Roberto Fabris. Bentornati sulle frequenze di Blu Radio. Quando arriva il weekend arriviamo anche noi, quindi siamo molto contenti di riproporvi tante nuove produzioni. Questa sera le prime due dischi saranno in stile dubstep, precisamente i Knife Party con Give It Up. Restate con noi e noi siamo pronti a iniziare in questo venerdì 14 novembre. Housemate. Questi erano i Knife Party con Give It Up. Abbiamo iniziato, ve lo ripeto, in stile dubstep questo venerdì 14 novembre. Dai, andiamo avanti. Il prossimo è un'altra bomba e targata Skrillex. Il titolo è Raga Bomb e torna con le sue produzioni. Questa è la versione sua e di Zomboy. Restate con noi, è sempre qui sulle frequenze di Blu Radio. Drop it. Rockin. Dopo Skrillex e Zomboy è in arrivo un'altra canzone che voglio dedicare a un mio carissimo amico. Lui è il colonnello che ci sarà ascoltando di sicuro in macchina mentre va al minimal. Questo è Disco Sure con Sam Smith, il remix di Marvels. Robby, ascoltati questa canzone perché è nel tuo genere, il genere Oliver Heldens, in stile, eh? Restate qui con noi, sempre sulle frequenze di Silver Radio con Housemaid. You enchant me, even when you're not around. Got me wrapped up in your touch. Feel feel so enamored. Hold me tight within your clutch. How do you do it? You got me losing every breath. Complimenti a Marvz per questo remix di Latch. Prossimo è un disco che mi ha consigliato un mio caro amico Gabri. Questo è Tortuga di Andrew Mathers. Restate qui con noi, è Housemaid. We'll be right back. bello anche questa canzone di Andrew Meadows con Tortuga. A me Tortuga viene in mente i Pirati dei Caraibi, quindi non lo so. Andiamo avanti, prossimo disco, Driving Deeper In. Questo è il remix di Casalc, l'originale di Carl Skyle e il Heinrich Baker. Restate qui con noi, con Housemade. Io vi rinnovo l'invito a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook per seguirci con tutte le informazioni. E se volete potete scaricarci anche l'applicazione su Google Play. Al momento solo per Android, ma sarà disponibile prossimamente anche per Apple. Restate qui con noi allora, eh. Questa è Housemade. Lasciamo questo disco e andiamo al prossimo. E arriva un remix di Scream. Questo è Preston Mori. Restate con noi, è sempre qui sulle frequenze di Blu Radio. We'll be right back. Questa produzione, o meglio questo remix di Kristen Mori con Scream. Dai, andiamo al prossimo disco, che è un altro remix. È Calvin Harris featuring Tinci, Dollar Sing, Roberto Rios e Dan Sparks Bootleg. Restate qui con noi, è sempre sulle frequenze di Blu Radio. Housemaid. Siete in giro in macchina, alzate il volume. Siete a casa, alzate il volume. E non so, se siete al lavoro, fatevi licenziare, ma alzate il volume. Queste ore di Housemaid sono tutte da ballare, eh? Io ve lo ricordo, non ve lo dico più. Restate qui con noi, Housemaid. Dollar signs. Said fuck this shit, you know what's on my mind. Stay on your hustle, you'll be on your grind. Whip out your heart and lift it on the line. You running out of time. You lose your mind, you lose your fucking mind. You lose your mind, you lose your fucking mind. You close your eyes, you're seeing dollar signs. Dollar signs. Ain't gotta tell you twice. No, no. If life's a game, I'm throwing loaded dice. Loaded dice. These other girls ain't really what you like. No, what you like. No. Feeling that gun in the way. Stressing about nothing all day. Money and hoes, come and they go. Nothing gon' fuck up my wife. Everything ain't what it seems. It's all just a dream. Something vicious, still it isn't right. Seeing all them secrets in your eyes. Meet me in the middle, underneath the lights. You know I ain't got no chill tonight. No chill, no chill, no. Down no chill tonight. No chill, no chill, no. Down no chill tonight. No chill, no chill, no. Thank you. E questo era Dollar Sing qui con Housemaid. Il prossimo è un nuovo disco di un ragazzo che ho citato prima per il suo stile, che ha influito veramente tantissimo nel mondo della house music. Lui è Oliver Helden insieme a Mr. Belt e Betzov. La canzone si chiama come un Pokémon, si chiama precisamente Pikachu. Pika Pika. È stato qui con noi Housemaid. Oliver Heldens con questa canzone intitolata Pikachu. Andiamo avanti perché il prossimo disco è di Sam Smith, o meglio è un mashup tra Sam Smith, Rehab e i Vinai. La la la Soundwave. L'ha messo insieme Ross D in questo venerdì 14 novembre. Le frequenze di Blue Radio si trasformano il venerdì sera e il sabato sera dalle 11 a mezzanotte. Bello questo mashup di Rosby. Andiamo avanti perché ne arriva un'altra nuova uscita. E ne arriva Blaster Jax con Lucky Number 13. Restate qui con noi, nostra compagnia, in compagnia di Housemaid. Anche questa è una nuova produzione. Restate qui sulle frequenze di Blu Radio. Sentito era la nuova di Blaster Jax e ora è in arrivo un nuovo mashupino. È in arrivo Sweet Dreams, la edit di Mark Rowan qui su Blu Radio. davanti a Mark Rowan per questa suo remix mesha, o meglio, questo è un, precisamente un bootleg. E ora passiamo a un altro artista internazionale molto conosciuto e molto bravo. E in arrivo Tujamo con That It Is. Avete già scaricato la nostra applicazione? E allora fatelo! Ovviamente è gratuita, eh! Housemaid! Con questa sua canzone molto bravo anche lui e molto veramente, diciamo, geniale sul suo genere. Torniamo alla house music che ci piace. Il prossimo disco è dei Two Elements e si intitola Tell Me Boy. Il remix è dei Deep Disco. Quindi restate con noi, alzate il volume perché House Made non è ancora finita. Abbiamo ancora due dischi da farvi ascoltare in questo venerdì 14 novembre. Ah, avete messo mi piace alla nostra pagina Facebook? Dai, noi ci contiamo. E se avete dischi da suggerire, fatelo, noi vi rispondiamo sempre. Questa è House Made. bello bello anche questo remix dei Deep Disco qui su Blu Radio con Housemade. Il prossimo è dei Fly Project, però non è l'originale ma è un remix di LLP, e questo è Tocca Tocca. Restate qui con noi, sempre in nostra compagnia, con questo ultimo disco molto ballabile, veramente molto carino. Vedete già il ritmo molto coinvolgente, e quindi fate una cosa, alzate il volume. Made a chiudere la puntata di venerdì 14 novembre. Io vi aspetto come ogni venerdì sera al Minimal Club di Cazzano Magnago con i ragazzi di Mida. Detto questo, ci sentiamo domani sera, sempre qui alla stessa ora e sempre con Housemade. Da Alberto Fabris è tutto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani. Ciao!